La nostra esistenza è caratterizzata da un passato, presente e un futuro. Mentre il passato è stato quello che è stato, il presente è quello che stiamo vivendo, il futuro è a noi incognito. Per forza di cose l'uomo saggio non rimpiangerà il passato, perché non produce nessun frutto, non rincorrerà il futuro perché arriva a tempo debito, per cui egli cercherà di vivere il presente nel miglior modo possibile. La parola di Dio afferma: considera l'opera di Dio. Chi può raddrizzare ciò che egli ha fatto storto? Nel giorno della prosperità sii allegro, ma nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto tanto l'uno che l'altro, perché l'uomo non scopra nulla di ciò che accadrà dopo di lui. Ecclesiaste 7, 13-14. L'opera di Dio consiste nell'evitare che la vita di ciascuno di noi scorra piatta. Sempre uguale, ci sono giorni belli e giorni brutti, giorni di prosperità e giorni di avversità. Mentre i giorni buoni o sereni tutti noi li prendiamo volentieri e senza porci tante domande, i giorni di avversità sono quelli che ci fanno riflettere di più. Poiché noi abbiamo un forte istinto, datoci da Dio, di essere felici, è evidente che tutti cerchiamo di evadere sofferenza, problemi e calamità. Mentre alcune difficoltà e avversità si possono risolvere nello spazio di breve tempo, altre, che ci rendiamo conto o no, si risolvono o si risolveranno se non dopo molti anni, quando tutto va bene. E alcune, fra le varie sofferenze, non verranno mai risolte. Perciò ci rendiamo conto che corre un lasso di tempo tra il problema che stiamo vivendo al tempo presente e il momento in cui queste difficoltà potranno, se è nel voler di Dio, essere risolte. Il periodo che intercorre tra il presente e il momento della liberazione si chiama Antico Testamento tesa. Spesso chi ha posto fede in Dio Creatore, in Cristo Gesù quale Salvatore e Signore della sua vita, si pone alcune domande. Come devo vivere questo momento di attesa? Come devo comportarmi? E, giusto che cerchi di risolvere, se è possibile, tale situazione, o devo accettare supinamente e ritenere la mia situazione ingrata o ingiusta nel volere di Dio? Cosa si intende affermando che bisogna accettare la volontà di Dio? Il mio scritto ha lo scopo di tentare di dare alcune risposte. Non è possibile parlare di ciò che succede nella vita senza iniziare a prendere coscienza della sovranità di Dio. Se è vero che il mondo è venuto all'esistenza mediante un atto creativo di Cristo, che esso sussiste per la sua potenza e che ogni circostanza nella vita di una persona è sotto il suo sguardo, che il male e il bene procedono dalla bocca dell'Altissimo, Lamentazioni 3:38, che se in una città accade una sciagura, essa sia causata da Yahweh, Amos 3:6, se è vero che neppure un passero cade a terra senza il volere del Padre nostro, Matteo 10:29, o che non cada foglia che Dio non voglia, allora dobbiamo ritenere ogni situazione nella nostra vita sia questa verità è più facile da capire che da accettare. È facile accettare che nella sua sovranità Dio governi il mondo, che decida per noi il nostro sesso, il colore della pelle, la nazionalità e, forse, anche il tenore di vita. Ma, quando si tratta di accettare la sua volontà dove vi è ingiustizia e sofferenza, allora la nostra morale e il nostro perbenismo si ribellano. Eppure non possiamo giocherellare con idee accademiche che non toccano mai la vita reale. Guardare in faccia la realtà è sempre più traumatico che fantasticare, ma vi è la possibilità che, dagli sconvolgimenti, possa scaturire una nuova era di calma e di fiducia. Forse l'esempio più significativo e scioccante della sovranità di Dio è stato sul monte Golgota. Su quel monte venne crocifisso il Figlio di Dio. Là si consumò il più grande dei peccati e la più grande ingiustizia mai antai commessi. Gesù Cristo patì ingiustamente delle sofferenze inaudite, eppure tutto rientrava nei piani di Dio. La prima preghiera dei cristiani che troviamo scritta nella Bibbia, dopo che furono minacciati severamente, fu: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto, per bocca di Davide tuo servo. Perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati, e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché Proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Atti 4, 24-28. I primi giudei cristiani conoscevano le scritture. Sapevano che tutto ciò che era successo rientrava nei piani eterni di Dio. Dunque odio, sofferenza, ingiustizia, morte, non erano avvenimenti casuali, ma precisa volontà di Dio. Si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione dipende dall'Eterno. Proverbi 16 e 33. Tale verità spiazza. Inutile nasconderlo. Per quanto ci si dibatta, in certe situazioni drammatiche a volte ci si trova ad andare contro la corrente di Dio. E a questo punto gli interrogativi di chi desidera compiere la volontà di Dio sono inquietanti e drammatici. Cosa devo fare? Devo lottare? Devo resistere? O devo lasciare che le cose vadano per il loro verso? Non nascondo le mie difficoltà nel rispondere a tali quesiti, che sono stati spesso i miei, in varie circostanze. Eppure, alcune riflessioni sono doverose. Non possiamo accettare tutto ciò che ci capita stoicamente, senza compiere una minima reazione. Fin da bambini, quando si cade, e cadere è una anormalità, istintivamente si mettono le mani avanti. Dio ci ha creati con un istinto di sopravvivenza, senza il quale nessuno potrebbe vivere. In seguito, con il discernimento, noi cerchiamo di proteggerci dalle avversità della vita. Se piove, cerchiamo un riparo, se abbiamo freddo ci vestiamo, se abbiamo fame mangiamo, se ci pungiamo il dito con una spina la togliamo, se siamo ammalati andiamo dal medico. Gesù stesso ordinò ai suoi discepoli, in caso di persecuzione, non di subire passivamente la situazione, ma di fuggire in un'altra città. Matteo 10 e 23. Infatti, quando Paolo seppe dal figlio di sua sorella che i farisei avevano ordito una congiura nei suoi confronti per ucciderlo, prese i provvedimenti perché ciò non avvenisse. Queste reazioni alle difficoltà e avversità della vita sono talmente istintive e naturali da non indurre nessuno a porsi il problema se sia la volontà di Dio che ci bagniamo, che soffriamo il freddo, la fame, che togliamo la spina, che rimaniamo ammalati, se dobbiamo cercare di salvarci la vita. E, ovvio che dobbiamo cercare il nostro benessere. Se ci poniamo tali interrogativi, forse ci è qualcosa che non va. Molto probabilmente abbiamo una immaturità psichica e spirituale marcata. Un giorno un giovane mi chiese se fosse nella volontà di Dio che si sposasse. La mia risposta fu molto semplice, anche senza l'ausilio di qualche versetto della Bibbia. Il desiderio di avere una famiglia è per te un problema? Senti la mancanza di una compagna? Se è così, non occorre che tu ti chieda se sia nella volontà di Dio che tu ti sposi. Quando devi andare in bagno, chiedi forse al Signore se questo è la sua volontà. Il giovane capì quanto fosse assurdo il suo interrogativo. Quindi non possiamo e non dobbiamo porci inutili, continui, assillanti interrogativi. L'episodio della liberazione dell'Apostolo Pietro dalla prigione può esserci di aiuto. Leggiamo nel libro degli Atti 12, 7-12, ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. E, percosso il fianco di Pietro, lo svegliò dicendo: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani, quindi l'angelo gli disse: «Cingiti, allacciati i sandali!» Ed egli fece così. Poi gli disse: «Avvolgiti nel mantello e seguimi!» E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Ora, come oltrepassarono il primo e secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro, e, usciti, percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando rientrò in sé, Pietro disse: «Ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei giudei». Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Finché si trattava di essere miracolosamente liberato, Pietro faceva esattamente ciò che l'angelo gli diceva. Ma quando l'angelo lo lasciò fuori dalla città, Pietro non chiese a Dio quale fosse la sua volontà, ma si recò, guidato dal suo discernimento, a trovare i suoi fratelli in fede. Nessuna titubanza. Nessuna preghiera. Il suo discernimento, coniugato con uno spirito di riflessione, buon senso, esperienza, lo hanno guidato a fare delle scelte, che egli riteneva volontà di Dio. Essere uomini e donne maturi nelle vie di Dio significa anche non avere quella fiducia in Dio che ha la sua sede nell'immaturità. Sì, perché non sempre la dipendenza da Dio è un atto di spiritualità. Spesso può essere un atto da bambini che, incapaci di prendersi le responsabilità, hanno sempre bisogno di un preciso comando di Dio, che provenga da un versetto, da un consiglio di un fratello, da una certezza interiore. A questi credenti Dio dice: «Ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano». Salmo 32, 8-9. Sono gli animali, come i cavalli e i muli, che hanno bisogno del morso in bocca, cioè di una direttiva decisa, diretta, dolorosa, per essere ubbiditi. Mentre, per delle persone intelligenti, capaci di ascoltare e di discernere, è sufficiente essere istruiti. Dopodiché essi sanno ciò che devono fare. Lo stesso è per la nostra esistenza. Se un adulto continua a chiedere al genitore se deve lavarsi i denti, come pettinarsi, quanto fa 2 più 2, allora siamo coscienti di essere di fronte ad una persona non normale. Dichiarato assurdo l'aspetto dell'estrema passività nei confronti delle situazioni della vita, consideriamo quando non sia lecito reagire. Poiché il nostro primo istinto, soffrendo un'ingiustizia, soprattutto a lungo termine, è quello di rendere la moneta che si riceve, una cosa è sicura. La vendetta non rientra nei piani di Dio. La scrittura è esplicita: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione. Dice il Signore, Romani, mezzogiorno e 19. Anche qui, facile dirsi, difficile da farsi. La vendetta è sbagliata. Proprio per il fatto che l'Eterno è sovrano, è Lui che fa morire e fa vivere, fa scendere nello Sheol e ne fa risalire, fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa ma anche innalza, 1 Samuele 2, 6-7, per cui spetta a Lui il momento e la circostanza nella quale operare. Ne è stato un esempio il re Davide. Nonostante che Davide avesse fatto del bene al re Saul, questo, per invidia, cercava di farlo morire. Per due volte Davide ebbe occasione di ucciderlo, ma non lo fece, impedendo perfino ad altri di ucciderlo. Se Davide avesse ucciso Saul, avrebbe risolto un grosso problema alla sua esistenza. Sarebbe stato molto più tranquilla e serena, non avrebbe dovuto fuggire come una lepre. Avrebbe potuto andare tranquillamente ad adorare il Signore con gli altri, ma egli ha atteso i tempi di Dio. E qui forse consiste il vero problema nel problema, l'Antico Testamento tesa. Per non essere teorico, ancora una volta consideriamo il comportamento del popolo di Israele, che rispecchia molto spesso il nostro. Più volte i salmisti nelle loro preghiere hanno raccontato le sofferenze del popolo e l'opera di Dio a suo favore. Il Salmo 106 ne è un esempio. Noi e i nostri padri abbiamo peccato. Abbiamo commesso iniquità e abbiamo fatto il male. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie, non si ricordarono del gran numero dei tuoi benefici e si ribellarono presso il mare, il Mar Rosso. Ciò nonostante il Signore li salvò per amore del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Sgridò il Mar Rosso e si seccò, e li guidò attraverso gli abissi come attraverso un deserto. Li salvò dalla mano di chi li odiava e li riscattò dalla mano del nemico. E le acque ricopersero i loro nemici, e non sopravvisse di loro neppure uno. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Ben presto però dimenticarono le sue opere e non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo disegno. si accesero di cupidigia nel deserto e tentarono Dio nella solitudine. Ed egli diede loro quanto chiedevano, ma mandò fra loro un morbo che assottigliò il loro numero. Salmo 106,6. Anche noi più di una volta abbiamo realizzato che il nostro Dio ci sia venuto incontro in alcune difficoltà in modi insoliti. Le circostanze erano tutte favorevoli, tutto è andato liscio, non abbiamo dovuto compiere nulla. Inaspettatamente tutto è andato come doveva andare. Ricordo di aver letto la testimonianza di un uomo a cui era venuto un infarto in macchina mentre aspettava che il semaforo diventasse verde. Il caso volle che, ad aspettare il semaforo verde, di fianco a loro ci fosse pure un'autoambulanza. Fu subito trasportato all'ospedale. All'ospedale non vi furono ostacoli per essere ricoverato e operato, così che tale tempestività gli salvò la vita. Niente da dire. Non rimane nel nostro cuore che un profondo senso di gratitudine perché le circostanze, e quindi la volontà di Dio, è stata favorevole. Ma non sempre le cose vanno così. Lo ha sperimentato anche il popolo di Israele. Era stato salvato, come quell'uomo in macchina, miracolosamente. Dio aveva fatto annegare tutti i loro nemici nel Mar Rosso. Aveva tolto per sempre il terrore della schiavitù, della sofferenza. Il loro cuore era pieno di lode. Ora, avevano solo da arrivare alla terra promessa dove li aspettavano benedizioni a non finire. Una terra propria, vigne, frutteti, un clima ideale per sé e per il loro bestiame, pace, feste religiose per adorare Yahweh, il loro Dio. Ma poiché non splende sempre il sole sulla nostra vita, anche loro si trovarono ben presto ad avere serie difficoltà. Cosa fecero? Si lamentarono. Ma lamentarsi non è del tutto sbagliato. Molti uomini di Dio si lamentarono davanti all'Eterno, ma per questo non furono ritenuti colpevoli. Essi invece furono incolpati perché non aspettarono fiduciosi l'adempimento del disegno dell'Eterno. In pratica, essi vollero anticipare ciò che l'Eterno aveva loro disposto, per cui chiesero con egoismo e voluttà ciò che l'Eterno avrebbe dato loro quando lo avrebbero ricevuto con l'atteggiamento giusto. Questa riflessione apre una finestra al grande interrogativo circa il motivo per il quale Dio a volte non ci conceda ciò che chiediamo. Nulla di nuovo, ovviamente. Giacomo lo aveva detto già 2000 anni fa. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Giacomo 4:3. Difficile credere che stiamo chiedendo a Dio cose per il nostro piacere. Difficile. Soprattutto quando ciò che chiediamo rientra in una lecita soddisfazione. E qui il problema dell'attesa si acuisce, per cui dobbiamo affrontarlo con tutta la maggiore ed onesta razionalità che ci sia possibile. Prendiamo un esempio purtroppo all'ordine del giorno, pratico, reale, drammatico e spesso letale. Il matrimonio. Per non cadere in possibili riflessioni personali e soggettive, che andrebbero anche bene ma potrebbero essere prese come atto di rivalsa, leggiamo le disposizioni di Dio al riguardo, espresse da un uomo sposato, cioè l'apostolo Pietro. Similmente voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti affinché, anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli d'oro, indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore, con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti come Sara che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore. Di essa voi siete divenute figlie, se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcun spavento. Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Infine siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male od oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite. sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché erediteate la benedizione. Infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E chi vi farà del male se voi seguite il bene? Ma, anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. 1 Pietro 3, 1:14. Secondo la parola di Dio, non tutti gli sposi realizzano il matrimonio come fu concepito secondo i piani divini. Se il matrimonio è uno dei più grandi doni, non vivendolo come tale, esso, al pari di ogni altro dono, si trasforma in danno. L'apostolo Pietro viveva tale pericolo, per cui, in questo brano, getta dei principi affinché simile grazia non diventasse una disgrazia, la moglie sia sottomessa. Tutti devono essere misericordiosi e compassionevoli e, se alla fine dovessimo soffrire, beati noi. Prendiamo in esame questi principi. Il marito sia comprensivo. La marito. La sottomissione della moglie al marito è una verità tanto evidente che non bisognerebbe neppure dover insegnare o convincere le mogli di essere sottomesse ai loro mariti. Eppure, è soprattutto per la mancanza di questo atteggiamento che nell'ambito del matrimonio vi sono tanti dolori e separazioni. Dopo 2000 anni, i figli di Dio hanno compreso che si è presentata alle donne una forma di sottomissione estrema, che aveva a che fare più con una forma di schiavismo che con uno spirito di ubbidienza. Ma ora si sta eccedendo dalla sponda opposta. Poiché la donna ha conquistato una certa indipendenza, essendo peccatrice quanto l'uomo maschio, ha rotto gli argini della sottomissione. In parte è comprensibile perché l'insegnamento spesso è stato di essere sottomessi al marito più che a Cristo. Una sorella, dotata di un evidente spirito di osservazione e di critica obiettiva, in uno scritto su di un periodico evangelico, metteva in luce alcune realtà nell'ambito del matrimonio quando la donna non è sottomessa. Un marito si lamenta: come mai? Mia moglie, che canta e prega alle riunioni di chiesa, a volte mi tratta come se non capissi niente. Mi contraddice davanti ai figli e agli amici, non fa quello che abbiamo deciso insieme. E se glielo dico, risponde che era meglio come aveva pensato lei. A lui fa eco un altro: questo è niente. Mia moglie corre da sua madre e le dice che la tratto male. E un terzo: per me è proprio vero. Il proverbio: io sono la testa, ma mia moglie è il collo. Ormai non cambia. Come mai, si chiedeva questa sorella, nonostante la nuova nascita fra le donne della pubblicità e quelle della realtà, anche di quella evangelica spesso ci è così poca differenza? Purtroppo la risposta è una sola. Una buona volta, queste donne credenti devono decidere non di sottomettersi ai mariti, ma al Signore. Questa è una realtà. Ma quando la moglie è sottomessa, e come afferma l'apostolo Pietro, ha un marito che non ubbidisce alla parola, cioè come deve comportarsi una donna timorata di Dio, che compie la sua volontà, che ama il marito, e nonostante tutto questo non si comporta secondo i canoni di Dio? La prima risposta che viene da dare è che ella debba confidare in Dio, che opererà, che ella debba rendere noto a Dio, mediante preghiera e supplica, ogni cosa con ringraziamento, perché le sue promesse sono veraci, poiché lo scettro dell'empietà non riposerà per sempre sull'eredità dei giusti, perché i giusti non stendano le loro mani a compiere il male. Salmo 125, 3. Parole sante, parole vere, ma intanto, come deve comportarsi chi si trova in una situazione drammatica? Come deve vivere l'Antico Testamento tesa della liberazione di Dio la moglie che ha un marito insensibile, crudele, senza tenerezza, apatico alle necessità fisiche e morali della donna con cui è sposato, che non ha la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole e non la onora? Se il marito non provvede ai suoi bisogni ma sperpera i soldi altrove, se non le dà nessun appoggio, morale, affettivo. Come deve essere sottomessa la moglie, prima a Dio e poi al marito? Deve vivere una vita di stenti? Deve far soffrire i suoi figli solo perché ha un marito cocciuto e caparbio? Anche dopo aver parlato al marito delle sue lecite necessità, se questo resta sordo ad ogni preghiera e supplica, la donna deve rimanere in quella situazione? Deve subire o deve trovare stratagemmi per non soffrire né lei né i suoi figli? Quali sono gli stratagemmi leciti? Oppure è lecito per lei abbandonare il tetto coniugale fino a quando una moglie deve subire i maltrattamenti morali e fisici del marito? Fino a quando deve portare avanti un rapporto che non è un rapporto morto, inesistente? Siamo certi di aver compreso bene? Comunque vada, un matrimonio, pur non essendo vissuto come tale, non si può mai sciogliere? Cosa intende la scrittura quando afferma di non rendere male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedire, sapendo che a questo siamo stati chiamati per ereditare la benedizione, e una chiamata ad avallare chi compie il male? Domande pesanti, problemi di etica. Certo, una moglie maltrattata deve continuare a confidare in Dio, ma il Nuovo Testamento, a Nuovo Testamento, come deve comportarsi? Questi interrogativi lacerano lentamente una sposa sensibile che ha il timor di Dio. Proprio perché ha il timor di Dio, tali interrogativi quotidiani hanno la capacità di sfiatare anche le anime più robuste. E poi, che dire? Chi ha detto che Dio intervenga in certe situazioni? La Scrittura afferma che Dio è pietoso, misericordioso, che soccorre la vedova e l'orfano, ma non ho mai letto che soccorra sempre tutti. Quante vedove e orfani non hanno aiuto? Quando Giacobbe e tutta la sua famiglia andarono in Egitto, egli ricevette la promessa che l'Eterno li avrebbe fatti uscire da quel paese. Ciò è successo però dopo 430 anni, e 430 anni sono generazioni e generazioni. E se ci pensiamo, quanti milioni di persone vissero nelle angherie e nei soprusi mentre l'Antico Testamento tendevano la liberazione? Cosa dovevano fare questi ebrei, venendo fatti schiavi, picchiati ingiustamente, umiliati, uccisi senza pietà, maltrattati a sangue, e vedendo i loro piccoli dati in pasto ai coccodrilli? Dovevano ribellarsi? No, dovevano aspettare la liberazione, e intanto dovevano soffrire ingiustamente. Questa era la volontà di Dio per loro. Abbiamo fatto un discorso al femminile, ma per obiettività non possiamo nascondere anche l'aspetto contrario. Pietro non tratta il caso di una moglie che domina il marito, perché ciò non era possibile né pensabile nella cultura ebraica. La scrittura, sempre pratica e realista, riconosce la possibilità che vi siano spose difficili, litigiose, scorbutiche, dispettose. Ecco come viene considerato un simile matrimonio. E meglio abitare sull'angolo di un tetto che in una casa condivisa con una donna litigiosa. Proverbi 21:9. E meglio abitare in un deserto che con una donna litigiosa e irritante. Proverbi 21:19. La parola di Dio riconosce che convivere con una donna che non abbia un spirito di sottomissione quasi sia impossibile. E meglio stare da soli in un deserto, ritirati su di un tetto, che coabitare con lei. Ho letto in un giornale che sono più numerose le donne che picchiano i mariti che il contrario. La cosa può stupire, ma se questa piaga è nascosta, è solo per il fatto che sia un po' amorale e umiliante che in un tribunale si tratti di un problema matrimoniale del genere. Gli uomini, infatti, fanno tutto il possibile per coprire tale aspetto. Se lasciamo a parte per un attimo l'etica, nella nostra psiche è anche normale e naturale che sia un uomo a picchiare una donna, causa la sua supremazia fisica. Ma è anormale che una donna picchi un uomo. Così, vi sono certe altre violenze nell'ambito matrimoniale da parte di una donna che solo chi sia sposato può comprendere. Credo che sia poco costruttivo elencarle tutte. ma una sola, non del tutto sconosciuta, vale la pena d'essere citata: la violenza sessuale. L'espressione violenza sessuale è applicata quasi esclusivamente all'uomo nei confronti della donna. Poche volte viene messo in rilievo l'abuso che fa del sesso la moglie nei confronti del marito. Tenendo conto dell'esistenza di una violenza attiva e di una passiva, la violenza femminile nell'ambito sessuale per lo più si esprime nella passività, cioè risiede nel rifiuto di offrire il proprio corpo al marito. Se ciò fosse solo da parte di chi non conosca la legge di Dio, ci sarebbero delle scusanti, ma poiché ciò avviene anche nell'ambito di una coppia di figli di Dio, la cosa diventa decisamente deprecabile. Come può avvenire? Non credo che i motivi che spingono certe donne credenti a rifiutarsi al marito siano diversi da quelli che motivano le donne che non conoscono Dio: rivalsa, vendetta, ripicca. Poiché la sposa cristiana è cosciente che il marito non possa tradirla, e tenendo conto che sia generalmente l'uomo ad avere bisogno della sessualità, è evidente che l'unica arma affilata, sottile, nascosta, in dotazione alla femmina, per colpire il maschio, resti il rapporto sessuale. Come hanno riconosciuto molti consulenti matrimoniali a letto, la donna compie le sue più grandi battaglie. Forse il mondo femminile ha sottovalutato tale problematica, ma se di tanto in tanto le cronache ci riportano di uomini che vanno giù di testa e sterminano la propria famiglia, e a volte anche quella degli altri, non è solo per un raptus di follia prodotto da un esaurimento nervoso. Una conclusione troppo elementare. Invece, la maggior parte delle ragioni è dovuta ad una sessualità vissuta drammaticamente all'interno del matrimonio. La sottomissione prima al Signore e poi al partner è un deterrente per arrivare, nell'ambito matrimoniale, a certi estremi. Ma che è dell'altro? Leggo molto volentieri articoli tesi ad indicare come dovrebbero vivere marito e moglie. Le conclusioni trattate sono per lo più riassunte nel seguente modo, che ho trovato in un recente articolo. Mogli, cercate la vostra gioia nella gioia nel vostro marito, affermando e onorando il ruolo che Dio gli ha assegnato come capo nella vostra elezione. Mariti, cercate la vostra gioia nella gioia di vostra moglie, accettando la responsabilità di guida, come Cristo guidò la Chiesa e diede se stesso per essa. Quadro idilliaco, il massimo, ma quando un marito non fa quello che deve fare, quando una moglie non rimane al suo posto, peggio ancora. Quando uno dei due non vuole collaborare per cambiare le cose, dimostrandosi come l'aspide sordo che si tura le orecchie. Salmo 58, 4. Purtroppo è sempre l'anima più pia che soffre all'interno di un matrimonio. E la persona più sensibile che soffre, che sente la mancanza di un rapporto come si deve. Per il coniuge rozzo, scorbutico, senza esigenze di relazioni che penetrino nell'intimo, tutto va bene. Anzi, trova strano e assurdo che si debba lavorare assieme, vivere per pensare in due, camminare fianco a fianco, costruire o abbattere in armonia. Per il partner insensibile, il sesso diventa un fatto o, peggio ancora, un dovere meccanico, la convivenza, un di più. La partecipazione di sentimenti come la condivisione degli avvenimenti sia interiori che esteriori della propria vita quotidiana, una stupidaggine. La famiglia, uno strumento per il suo piacere. Come vivere con un simile partner? Com'è possibile vivere con un simile partner? Per fede, sì, ma fede in che cosa? Abbiamo detto che non sia scritto che Dio intervenga in tutte le situazioni e... forse intervenuto Dio quando sono stati sterminati 6 milioni di ebrei? Non voglio mettere in dubbio l'amore di Dio, ovviamente. Anche se dubito che la maggioranza delle persone abbia capito in che cosa consista l'amore di Dio, la realtà ci impedisce però di costruire castelli in aria. No, noi non possiamo predicare che Dio intervenga sempre né che Egli voglia intervenire sempre per risolvere i nostri problemi. Dio interviene se vuole e quando vuole, come nel caso del popolo di Israele. Yahweh ha liberato il popolo di Israele. Sì, ma solo dopo 430 anni, cioè solo nel momento precedentemente e opportunamente fissato dal suo piano. Né prima né dopo, e intanto milioni di persone soffrivano terribilmente. Così ci sono situazioni matrimoniali nelle quali Dio lascia che le cose stiano così. E allora ci chiediamo perché soffrire causa un capardio? Perché mi viene negato il lecito? E alla sofferenza si aggiunge la stizza, l'indignazione. Se soffrissi per una ragione valida, posso capirlo. Ma dover soffrire solo perché ho sposato una persona che negli anni si è rivelata ignorante, rozza, testona. Quale senso ha? E allora, cosa deve fare colui che ha il timore di Dio? Abbiamo forse una risposta, ma che sappia essere una risposta che consoli al posto di tante parole che altro non fanno. Se non aggiungere peso, a chi ne sia già da sé oberato. Io non credo. O almeno, io non ne ho. In questo mi trovo pienamente d'accordo con C.S. Lewis, il quale scrisse un diario sul suo dolore per la morte della moglie. Sono parole uniche, forti, decise, coraggiose, franche, ma che solo un uomo come lui poteva esprimere così coraggiosamente. Parlatemi della verità della religione e ascolterò con gioia. Parlatemi del dovere della religione e ascolterò con umiltà. Ma non venite a parlarmi delle consolazioni della religione, o sospetterò che non capite. Consolazioni! Certo, la parola di Dio è piena di parole di consolazioni. L'Eterno stesso disse, Io stesso sono colui che vi consola. Isaia 51, 12. Consolazioni, sì, ma di che tipo? Che la situazione sarà risolta, forse, quando? Dall'esperienza non possiamo fissare nessuna data. Forse mai. In certi paesi dell'Oriente molti cristiani sono stati imprigionati per la loro fede. Alcuni ne sono usciti, altri sono morti in prigione. Come scrive l'autore della lettera agli ebrei, in riferimento ai martiri, le donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri invece furono distesi sulla ruota e martoriati, ebrei 11 e 35. Perciò se dobbiamo parlare di consolazione parliamo della vera consolazione, quella di cui parla Dio. Il nostro Dio è il Dio delle circostanze, è il Dio che governa ogni situazione, positiva o negativa, almeno dal nostro punto di vista. Egli non ci ha promesso felicità terrena, se non quella che scaturisca dal compimento della sua volontà. Quando ci si trova in circostanze avverse, che per le nostre possibilità non possiamo mutare, allora dobbiamo ritenere, per fede, che quella situazione corrisponda al volere di Dio. Ciò comporta che io devo soffrire, subire, boccheggiare, arrampicarmi, camminare in un sentiero fangoso, senza vederne la fine. I miei sentimenti vengono tritati a morte, vilipesi, calpestati. La mia volontà viene drammaticamente scuoiata, domata, frustata. Vengo travasato da vaso a vaso e sono condotto in cattività. Geremia 48, 11. Ecco com'è il periodo dell'Antico Testamento tesa. Ecco come devo vivere, mome Nuovo Testamento a neame Nuovo Testamento. Non devo avere sensi di colpa se i miei momenti di smarrimento sono più frequenti di quelli della sicurezza. Come non posso avere sensi di colpa se, quando sono torturato, i momenti di dolore sono più frequenti dello star bene. Se Dio vuole che io viva con un cuore ferito e sanguinante, spesso incerto nelle decisioni per le situazioni anomali per le quali non si trovano indicazioni nella Scrittura, sia fatta la sua volontà. Quella volontà che permette che io abbia comportamenti imperfetti in situazioni imperfette. Per aiutare a comprendere tale affermazione, prendo in prestito un episodio narrato da John Steinbeck nel suo libro Furore. Alla fine del libro, una protagonista, Rosa Thea, appena puerpera, si trova davanti ad un uomo sulla cinquantina d'anni, che sta morendo di fame. Era talmente debole da non poter mangiare nessun cibo solido, ma solo latte o brodo. La donna, considerata la drammatica situazione, porge il proprio seno all'uomo perché possa nutrirsi con il suo latte. Certo, non è una cosa da farsi tutti i giorni, ma, come si dice, a mali estremi, estremi rimedi. Mi chiedo se tale proverbio non scaturisca dal principio di Dio, che vuole misericordia e non sacrificio. Il sacrificio calcola la legalità, la misericordia considera il bisogno altrui. Il sacrificio si ferma di fronte al moralismo, la misericordia si serve della morale per aiutare il prossimo. Come disse Paolo, perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. 1 Corinzi 4:5. Devo confessare che leggendo la scrittura, nella mia mente si sono formati dei principi abbastanza solidi, ma quando poi devo calarli nella quotidianità e in una realtà dove si intrecciano molteplici verità e aspetti, i miei principi, la mia razionalità e logicità, spesso subiscono dei grossi scossoni. Ho notato nei Vangeli, per esempio, come Gesù abbia ordinato categoricamente ai suoi 12 discepoli di non andare dai pagani, né entrare in una città di Samaritani, Matteo 10:5. Eppure, lui stesso guarì la figlia di una donna, sirofenicia, anche se non voleva, e addirittura rimase 2 giorni a Sichar, una città dei Samaritani. La misericordia di Dio non è legalista, non ha confini. Comprendere le compassioni di Dio è l'obiettivo della mia vita. L'Apostolo Paolo scrisse ai Romani che aveva grande tristezza e continuo dolore nel suo cuore. Romani 9:2. Coloro che parlano della gioia cristiana devono chiarire che cosa intendano affermare. L'Apostolo ha vissuto tutta la sua esistenza con una tristezza e un dolore tali al punto di voler essere perduto lui piuttosto che i suoi fratelli di carne. Chi è arrivato a tanto, eppure egli era sempre allegro in Cristo e invitava altri a rallegrarsi in Dio. Questo è il comportamento dell'Antico Testamento tesa della liberazione di Dio. Si vive con l'atteggiamento della richiesta di un servo verso il suo padrone dispotico, come un animale assetato che cerca dei rivi d'acqua. Se ti viene concesso ciò che chiedi, lo ricevi a pieni mani, con immensa gioia e riconoscenza. Se non ti viene concesso, allora, mentre aspetti che non ti venga concesso, accetti la situazione che il tuo padrone ti ha posto dinanzi, per fede. Fede che Dio sia sovrano, che nulla gli sfugga, che egli sia responsabile del bene e del male. Lamentazioni 3:38, per cui se, dopo un serio esame, la tua infelice situazione non è il risultato di una via sbagliata che stai percorrendo, ma un incastro, dove Dio vuole che tu stia, come sta scritto, sì, per causa tua noi siamo messi a morte ogni giorno e siamo considerati come pecore da macello, Salmo 44:22, ritieni ciò la volontà di Dio. La parola di Dio è esplicita al riguardo. Leggiamo nel libro delle Lamentazioni 3:26-31. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Buona cosa è per l'uomo portare il giogo nella sua giovinezza. Sieda solitario e stia in silenzio quando Dio glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse ci è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi di vituperio. Poiché il Signore non rigetta per sempre. Questo è il punto. Hai fede che la tua sofferenza, la tua ingiustizia, rientri negli insondabili, amorevoli piani di Dio. Ciò non presuppone che, in futuro, Dio non intervenga, ma l'accettazione del presente ti rende idoneo a comprendere ed accettare in seguito i suoi piani. Lo scopo di Dio nel incastrarti, o come dice il profeta Geremia, nell'importi una situazione, è che tu lo aspetti, credendo che lui non tolga nulla senza darti di più. Questa è la fede che produce accettazione. Una accettazione che allontana rammarico, sdegno, afflizione, desiderio di rivalsa. Solo così, a mio avviso, posso accettare anche razionalmente l'Antico Testamento tesa della risposta di Dio. un'attesa piena di valore. Luglio 2003, Eller.